Coffee Break Italian, Season 1, Episode 35. Salve a tutti e benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark, and yes, I'm back with another episode of Coffee Break Italian for you. Now, in this episode, we're continuing to look at our conversations that we recorded when we were in Italy. And today, you'll be joining Katie and me in the tourist information office in Stresa, where we were asking for some information about Stresa and what there is to do there. Allora, cominciamo! Now, this obviously gives us lots of opportunities to review some of the language that we've covered in previous lessons. We're asking for information about what there is to do in Stresa, and therefore we'll be asking about opening times, we'll be talking about the price of entry to particular places, and generally information about the area. As usual, we'll have a listen to the conversation in full, and then I'll help you understand every part of it by going through it in detail. Allora, siamo pronti? Iniziamo! Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Avete bisogno di informazioni? Sì. Come posso aiutarvi? Vorrei un po' di informazioni sulla città. Va bene. Avete già una cartina? No, non abbiamo una cartina. Ok. Ecco una cartina della città. Siamo qui. Questo è l'ufficio del turismo di Stresa. Vi faccio vedere cosa si può visitare. Ovviamente ci sono le isole e il Lago Maggiore, dove potreste fare un bel giro in barca. Ah sì, ci sono delle piccole isole, non è vero? Sì, è vero. Che altro? Ci sono molte belle piazze, le due più belle sono qui e qui. Domani c'è un mercato dove potete trovare diversi regali e oggetti anche di artigianato. Molto bene. A mia madre piacciono molto i gioielli. Posso comprare un regalo per lei? C'è anche un palazzo, no? Sì, si chiama Palazzo Borromeo. È aperto oggi? Sì, il palazzo apre tutti i giorni alle 9 e chiude alle 5 e mezzo. E quanto costa l'ingresso? Vedere il palazzo e i giardini costa 15 euro. Benissimo, cosa possiamo fare stasera? Ci sono molti ristoranti tipici, potete assaggiare ottimi piatti regionali e anche italiani. Questa settimana c'è anche un festival di musica jazz. Ci sono molti concerti gratuiti. Che bello! Sono d'accordo, grazie molte! Prego, divertitevi allora. Buona giornata. Arrivederci. Okay, now to help you understand this dialogue, I think it might be useful to talk a little bit about the structure. First of all, we talk about a map, una cartina. We say that we don't have a map, so we are given a map by the lady in the tourist information office. And then we talk a little bit about what there is to do in the area. The lady mentions that there's a particular thing happening tomorrow, domani. She says, domani c'è un mercato. There's a market happening tomorrow. And then Kitty asks a question about the palace. C'è anche un palazzo. There's also a palace because we've heard about the Palazzo Borromeo. We talk a little about the opening times and also the entrance fee for the palace, the Palazzo Borromeo. And then finally, the lady in the tourist information office suggests some things that we could do in the evening. Let's have another listen to the full conversation, and then, after that, we'll go through it in detail. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Avete bisogno di informazioni? Sì. Come posso aiutarvi? Vorrei un po' di informazioni sulla città. Va bene. Avete già una cartina? No, non abbiamo una cartina. Ok, ecco una cartina della città. Siamo qui, questo è l'ufficio del turismo di Stresa. Vi faccio vedere cosa si può visitare. Ovviamente ci sono le isole e il Lago Maggiore, dove potreste fare un bel giro in barca. Ah sì, ci sono delle piccole isole, non è vero? Sì, è vero. Che altro? Ci sono molte belle piazze, le due più belle sono qui e qui. Domani c'è un mercato dove potete trovare diversi regali e oggetti anche di artigianato. Molto bene. A mia madre piacciono molto i gioielli. Posso comprare un regalo per lei? C'è anche un palazzo, no? Sì, si chiama Palazzo Borromeo. È aperto oggi? Sì, il palazzo apre tutti i giorni alle 9 e chiude alle 5 e mezzo. E quanto costa l'ingresso? Vedere il palazzo e i giardini costa 15 euro. Benissimo. Cosa possiamo fare stasera? Ci sono molti ristoranti tipici. Potete assaggiare ottimi piatti regionali e anche italiani. Questa settimana c'è anche un festival di musica jazz. Ci sono molti concerti gratuiti. Che bello! Sono d'accordo. Grazie molte. Prego, divertitevi allora. Buona giornata. Arrivederci. Okay, I hope that second time listening through to the conversation helped you understand a little more of what was said. It's now time to go through the conversation in detail. As usual, I'll split this up and we'll talk about each part in turn. To begin with, we both greeted the lady in the tourist information office and she asked us a question. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Avete bisogno di informazioni? Sì. Come posso aiutarvi? Okay, so the lady has asked us, do we have need of information? She's using the voi form. She's saying, avete bisogno di informazioni. Do you have need of informations, if you like? Informazioni is the plural form. So, do you have need of informations? We say, yes, we do indeed need some information. And the lady asks us, how can I help you? It's a phrase we've seen before. Come posso aiutarvi? The V form refers to you all, in this case, both Katie and me. So, aiutarvi, how can I help you? Come posso aiutarvi? If there were just one person and you were using an informal form, you could say, come posso aiutarti? Or, if you were using the formal form, the lei form, then that would become, come posso aiutarla? Okay, in this case, however, the lady was talking to both of us, so she said, come posso aiutarvi? Posso, from the verb potere, meaning to be able to, and therefore, I can. How? I can help you. Come posso aiutarvi? Come posso aiutarvi? Let's listen on to the next part of the conversation. Come posso aiutarvi? Vorrei un po' di informazioni sulla città. Va bene, avete già una cartina? No, non abbiamo una cartina. So, Katie says, vorrei un po' di informazioni sulla città. I would like a little information, un po' di informazioni sulla città. Now, su means on. So, sulla città, on the city, on the town. I'd like a little bit of information about the town. Vorrei un po' di informazioni sulla città. In response to this, the lady says, va bene, ok, avete già una cartina. Do you already have a map, a town plan, una cartina? Katie responds by saying, no, we don't have a map. Non abbiamo una cartina. Va bene, avete già una cartina? No, non abbiamo una cartina. Ok, ecco una cartina della città. Siamo qui, questo è l'ufficio del turismo di Stresa. Vi faccio vedere cosa si può visitare. Now, this is a great expression, vi faccio vedere. Let's come back to that in just a moment. She says, ecco una cartina della città. Here is, using that great word ecco, meaning here is, I'm offering you something. Here is una cartina della città, a map of the town. And then she points out where we are. She says, siamo qui, pointing to the map. Questo è l'ufficio del turismo di Stresa. This is the Stresa Tourist Information Office. And then, using this really good expression, vi faccio vedere cosa si può visitare. So, let's translate this literally. Vi, to you all, to you both in this case, faccio, I make, vedere, to see, cosa, thing, si può visitare, one can visit. So what the lady is saying is, I will show you, or I'm showing you, what you can visit. Vi faccio vedere. Literally, I make you to see. Vi faccio vedere cosa si può visitare. Cosa, meaning the thing or what, si può visitare, one can visit. Vi faccio vedere cosa si può visitare. She goes on to explain what we can visit. Vi faccio vedere cosa si può visitare. Ovviamente ci sono le isole e il Lago Maggiore, dove potreste fare un bel giro in barca. This is pretty fast. Let's listen again to what she says here. Ovviamente ci sono le isole e il lago maggiore dove potreste fare un bel giro in barca. So she's talking about le isole. Isola is the word for island. So le isole, the islands, e il lago maggiore, and the lake maggiore, dove potreste fare un bel giro in barca. Now this is quite tricky because she's using what's called a conditional tense. Potreste comes from the verb potere. You recognize potere to be able to. So posso, I can. Potrei, I could. And here, potreste, you could. So dove potreste fare, where you could do, un bel giro, a beautiful trip, in barca, in a boat. So there's obviously, ovviamente, ci sono le isole e il lago maggiore, there are the islands and lake maggiore, where you could do a really nice trip in a boat, a boat trip. Ovviamente ci sono le isole e il lago maggiore, dove potreste fare un bel giro in barca. Ah sì, ci sono delle piccole isole, non è vero? Sì, sì, è vero. So I've heard of these little islands before on Lake Maggiore, and I said, ci sono delle piccole isole, non è vero? There are little islands, isn't that true? Non è vero? That's a good way to ask a question after you've made a statement. Non è vero? Isn't that true? It's like in English when we say, there are some little islands, aren't there? When we add a question at the end of a statement to confirm that what we've said is true. Non è vero? Is it not true? Literally. Ci sono delle piccole isole, non è vero? And the lady says, sì, sì, è vero, it's true. She then goes on to add some further information. She asks, what else is there? Che altro? Ah, sì, ci sono delle piccole isole, non è vero? Sì, sì, è vero. Che altro? Ci sono molte belle piazze, le due più belle sono qui e qui. Domani c'è un mercato dove potete trovare diversi regali e oggetti anche di artigianato. Now again, this is pretty fast and it's quite specific in terms of vocabulary. She mentions oggetti di artigianato. Now, anything that's artigianato is something to do with craft work. Listen again. Che altro? Ci sono molte belle piazze, le due più belle sono qui e qui. Domani c'è un mercato dove potete trovare diversi regali e oggetti anche di artigianato. Okay, so she said, ci sono molte belle piazze. There are lots of beautiful squares, piazze. Una piazza, a square, due piazze, two squares, or molte belle piazze, many beautiful squares. And she mentions the two that are most beautiful, le due più belle, sono qui e qui, pointing on the map. She says that they are here and here. And then she mentions tomorrow, domani, c'è un mercato, there's a market, dove potete trovare, where you will be able to find, or where you can find, diversi regali, different presents or gifts, e oggetti, and objects, anche di artigianato, also from craftwork. Okay, so that's a quite a literal translation there, but tomorrow there's a market where you'll be able to find presents, gifts, and objects of craftwork. So local crafts and handiwork, that kind of thing. Domani c'è un mercato dove potete trovare diversi regali e oggetti anche di artigianato. Domani c'è un mercato dove potete trovare diversi regali e oggetti anche di artigianato. Molto bene. A mia madre piacciono molto i gioielli. Posso comprare un regalo per lei? So Katie's thinking about buying a regalo per sua madre. She says, a mia madre piacciono molto i gioielli. Gioielli are jewels, so jewelry. So to my mother, they please lots the jewels. My mother really likes jewels. Posso comprare un regalo per lei. I can buy a present for her. She then goes on to ask another question. Molto bene. A mia madre piacciono molto i gioielli. Posso comprare un regalo per lei? C'è anche un palazzo, no? Sì, si chiama Palazzo Borromeo. So Kitty has said, c'è anche un palazzo, no? There is also a palace, no? And the lady from the Tourist Information Office replies, sì, si chiama Palazzo Borromeo. So this is the name of the palace in Stresa. And then I ask the question, is it open today? È aperto oggi? Sì, il palazzo apre tutti i giorni alle 9 e chiude alle 5 e mezzo. Did you get those opening times? Listen one more time. È aperto oggi? Sì, il palazzo apre tutti i giorni alle 9 e chiude alle 5 e mezzo. So the palace opens every day at 9 o'clock, apre tutti i giorni alle 9 e chiude alle 5 e mezzo. And it closes at 5:30. Now, the next question here from Katie is, quanto costa l'ingresso? L'ingresso is the entrance, the fee to get in. L'ingresso. Quanto costa l'ingresso? How much is the entrance? The lady says, to see the palace and the gardens costs, and then she gives the price. Have a listen to the price and see if you can work out what this means. E quanto costa l'ingresso? Vedere il palazzo e i giardini costa 15 euro. Benissimo! Did you get the price? Costa 15 euro. Vedere il palazzo e i giardini costa 15 euro. So to see the palace and the gardens costs 15 euros. Okay, the next part is about what we can do this evening. Katie asked the question, what can we do this evening? See if you can work out how you would say that. What can we do this evening? Okay, we can use the word cosa or che cosa. Possiamo fare, we can do. Cosa possiamo fare stasera? Stasera or questa sera, but stasera is the shortened form and is more natural. Cosa possiamo fare stasera? Let's listen to the suggestions. Cosa possiamo fare stasera? Ci sono molti ristoranti tipici. Potete assaggiare ottimi piatti regionali e anche italiani. Okay, so the lady has says, ci sono molti ristoranti tipici. There are many typical restaurants. She uses potete, again, from the verb potere, you can. Potete assaggiare, you can taste or try, ottimi piatti regionali, delightful, delicious regional plates, regional dishes, e anche italiani, and also Italian dishes. And then she mentions something particular about this week. It's something to do with music. Have a listen. Questa settimana c'è anche un festival di musica jazz. Ci sono molti concerti gratuiti. Questa settimana, this week, c'è anche un festival di musica jazz. So there's also a jazz music festival. And she mentions, ci sono molti concerti gratuiti. There are many free concerts. Gratuiti, meaning free. Molti concerti, concerti, the plural form, so gratuiti, also has to be plural. I think this sounds like a great idea. I say, che bello. And Katie is in agreement. Sono d'accordo, I agree. Che bello. Sono d'accordo, grazie molte. Prego, divertitevi allora. Buona giornata. Arrivederci. Did you pick up that phrase that the lady said? Divertitevi allora. Enjoy yourselves then. Divertitevi allora. We wish her a pleasant day and say goodbye. Okay, that's the whole conversation. Let's go back through and listen one more time. Hopefully this time you'll understand everything. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Avete bisogno di informazioni? Sì. Come posso aiutarvi? Vorrei un po' di informazioni sulla città. Va bene. Avete già una cartina? No, non abbiamo una cartina. Ok. Ecco una cartina della città. Siamo qui, questo è l'ufficio del turismo di Stresa. Vi faccio vedere cosa si può visitare. Ovviamente ci sono le isole e il Lago Maggiore, dove potreste fare un bel giro in barca. Ah sì, ci sono delle piccole isole, non è vero? Sì, sì, è vero. Che altro? Ci sono molte belle piazze, le due più belle sono qui e qui. Domani c'è un mercato dove potete trovare diversi regali e oggetti anche di artigianato. Molto bene. A mia madre piacciono molto i gioielli. Posso comprare un regalo per lei? C'è anche un palazzo, no?